cellulari e computer, videogiochi e pubblicità, social network, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram e Shazam. Oggi figli del 2000, pecorelle smarrite qua e là, tanta voglia di apparire, tanta voglia di libertà. Tanti amori lunghi un mese, pochi amori concreti in realtà, per i figli del 2000 quel che conta è la libertà. Spesso depressi, spesso è complessa la loro personalità, anoressia e bulimia, voglia di farsi male. Ma oggigiorno è la moda che impone così. I ragazzi per capriccio stanno bene a soffrire ogni dì, ma i figli del 2000, pecorelle smarrite qua e là, cercan sempre come tutti, cercan sempre la felicità.